Una mattina mi sono svegliato, oh Milan ciao, Milan ciao, Milan ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho acceso il radio diffusor e sulla radio di Confindustria, oh Milan ciao, Milan ciao, Milan ciao, ciao, ciao. Uno nessuno e cento Milan io ho potuto ascoltare, e tutti quelli che lo vorranno, oh Milan ciao, Milan ciao, Milan ciao, ciao, ciao. Conte Manera, il grande attore, si potranno divertire. Conte Manera, il grande attore, si potranno divertire. Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera. E allora, io non lo so se vi rendiate conto, non lo so se si renda conto, lo voglio subito chiamare in causa Mario Calabresi, del livello di ascoltatori che abbiamo, del livello artistico, qualitativo, di attenzione, di creatività artistica. Mario Calabresi, ma hai sentito che presigla, ci ha mandato un ascoltatore, capisci? Chi è? Ma non lo so, noi non lo sappiamo. Nome e cognome. No, non lo so. Lo fanno tutto per i celebri 15 minuti di gloria. Stessa cosa. Cioè, sì, ovvio. La tua è la prima volta che mi hai invitato sembrava un posto serio, adesso è diventato una ridotta bolscevica. Io tra un po' non risponderò più al telefono. No, rispondere, anche almeno tu all'inizio mi hai detto vieni e ti offriamo il caffè, adesso sì, facendolo da casa mi devo anche fare il caffè, per cui insomma ti sei inguaiato da solo, il classico trappolone ti abbiamo fatto, esatto. Il classico trappolone, esatto. Milan, buongiorno bolscevico, eccolo là. Ecco, sì, c'è anche la c'è poi anche l'alpino, la versione gli piace, c'è. Sì. No, oggi c'è Carmelo Lauricella in regia. Carmelo, ti suggerisco vabbè, che c'è anche alpino. Sì, vabbè, questo si fa gli applausi, c'è, ragazzi, non so se ti rendi conto, abbiamo un regista che quando viene nominato si fa gli applausi, cioè siamo veramente ormai una situazione fuori controllo. Comunque siamo qui venerdì, stiamo con voi fino alle 10:30. Se volete chiamarci 800 24 00 24, e invece scriveteci al 349 238 6666. Fatemi salutare Valentina Ternullo, che è con noi insieme a Elisabetta Fusconi, Miriam Lucchetti e Lorenzo Nespoli. Ci sono delle pernacchie invece per Lorenzo Nespoli, così oggi mi viene così. No, non ci sono. E allora possiamo iniziare, caro Carmelo, perché abbiamo tante cose come al solito da dire, tanti ospiti qui con noi, eh? Enthusiasm about the future. Allora Mario, io vorrei sottoporre a te intanto una voce che ci porta un po' lontano dal tema coronavirus, perché il coronavirus ha un po' annullato tutte le nostre vite, le azzerate, ma ci sono anche altre notizie di cui si può parlare. Una per esempio mi ha molto colpito perché è legata anche a uno dei libri che io ho letto con maggiore passione qualche anno fa, che è il libro di Bernard-Henri Lévy, Chi ha ucciso Daniel Pearl. Daniel Pearl era un giornalista del Wall Street Journal che è stato ucciso in Pakistan da estremisti islamici. La notizia è stata data dalle TV pakistane. Senti qui. A Pakistani court has allowed all the accused in American journalist Daniel Pearl's murder to walk free. The Sindh High Court commuted the death sentence of main culprit Omar Sheikh. Insomma, i colpevoli in primo piano, Omar Sheikh, di quell'uccisione, sono stati di fatto liberati, nel senso che era stata data la pena di morte a loro, ora la pena è stata commutata a 7 anni, ne hanno già scontati più di 10, 12, 18, e quindi 18. saranno liberi. Saranno liberi. Io ripeto, non so che ricordo tu abbia di Daniel Pearl. Io, quando ho letto questo libro inchiesta di Bernard-Henri Lévy, che suggerisco a tutti gli ascoltatori, mi ha veramente illuminato, straordinario, è del 2003 questo libro, ma lo trovate. Succede anche questo nel mondo lontano da noi, Mario? Intanto Daniel Pearl era un giornalista, è stata forse l'ultima volta che un giornalista ancora ha avuto l'illusione che si potesse fare un'inchiesta nel mondo dell'estremismo islamico. Dopo la sua morte poi abbiamo visto i giornalisti rapiti in Afghanistan, in Pakistan, in Siria, non è mai più stato possibile. Lui era andato, vi ricordate c'era uno che si chiamava Jihadi John che aveva messo l'esplosivo nelle scarpe su un aereo americano? Era ecco, lui era andato aereo, a cercare la rete che aveva finanziato Jihadi John e venne rapito, ucciso, tra l'altro rapito da uno Khaled Sheikh Mohammed che era stata la mente finanziaria dell'11 settembre e che poi però che sta a Guantanamo, quindi probabilmente diciamo così anche la testa di questo rapimento e dell'esecuzione è a Guantanamo. Questi erano quelli che gli hanno fatto fare il rapimento. Vengono da pensare a due cose. Una, passami l'amara verità, però adesso gli hanno aggiunto 7 anni e ne ha fatti 18, e se in Italia già qualcuno facesse 18 più 7 è molto. Sarebbe, sì. Secondo, c'è un dato, che in mezzo a questo casino mondiale chissà quante cose che scopriremo che vengono fatte. Cioè, in un altro momento ci sarebbe stata l'indignazione degli Stati Uniti di fronte a un gesto di questo tipo. È vero. Avrebbero detto blocchiamo gli aiuti al Pakistan. È un chissà, alleato forse militare, hanno, non lo forse sosteniamo. Hanno trovato il momento giusto anche, no? In Ma Pakistan, in questo momento tu immaginati se gli Stati Uniti che sono arrivati ad avere 10 volte più disoccupati che chiedono sussidio di disoccupazione di quanti ce ne siano mai stati nella loro storia del dopoguerra, immaginati se hanno tempo di occuparsi del Pakistan, non ce l'hanno. Per cui mi ha fatto pensare questa notizia stamattina, chissà cosa scopriremo che viene fatto un po' dietro le quinte in questo periodo in giro per il mondo, anche perché le notizie del mondo non le sappiamo più. Io ho fatto uno sforzo l'altro giorno di dire vediamo cosa succede di altro nel mondo, perché qualcos'altro succederà, e sono andato a guardarmi tutti i siti. Il problema è che se tu vai da Le Monde al New York Times sono siti che sono fatti solo di notizie sul coronavirus. Ma d'altronde tutto il mondo è in quarantena. Quindi. Sì, io ripeto, tra l'altro questo libro di Bernard Henri Lévy, che è un intellettuale, ma in questo caso Henri Lévy va proprio sul campo, va nelle madrasse del Pakistan, va a cercare lui stesso con un'indagine sul campo di capire chi abbia ucciso Daniel Pearl. Fa esattamente il lavoro che ha fatto Daniel Pearl. Daniel Pearl stava andando a cercare altri colpevoli e lui va a cercare chi probabilmente l'ha ucciso e scopre delle cose sconvolgenti anche a rischio. Io a devo rischio ammettere della che il libro non l'ho letto, ma adesso lo cerco. No, veramente te lo consiglio, perché è un'indagine non filosofica, la rilevi, ma un'indagine proprio giornalistica sul campo molto, molto bella. Comunque, poi c'è il coronavirus. Allora ci spostiamo, visto che hai citato l'America, proprio in America, dove, come tu hai detto correttamente, ci sono credo 10 milioni di richieste di sussidio di disoccupazione e c'è una strana guerra verbale in corso tra il presidente americano e lo scienziato numero uno, quello che già ha studiato l'AIDS, che è riconosciuto al mondo come uno dei più autorevoli sul campo, Anthony Fauci. Sentiamo la voce, Carmelo. The president feels optimistic about something, his feeling about it. What I'm saying is that it might be effective. I'm not saying that it isn't. It might be effective, but as a scientist, as we're getting it out there, we need to do it in a way as while we are making it available for people. Insomma, per riassumere agli ascoltatori, Mario, c'è Fauci che parla rarissimamente, tra l'altro, che richiama un po' all'ordine Trump dicendo sì, va bene l'ottimismo, io da scienziato mi permetto di dire che i dati sono diversi. Risultato, Fauci è sotto scorta. incredibile, badate, ma è in così. America essere sotto scorta è un evento assolutamente eccezionale. Sotto scorta non mettono nessuno negli Stati Uniti. Avere 8 persone di scorta è considerata una cosa davvero grave, reale, di un pericolo tangibile e imminente. Non è una cosa che si fa così come simbolicamente, come altrove. E che cosa sta succedendo in America? In America sta succedendo una cosa che, grazie al cielo, in Italia non c'è. In Italia sono iniziate le polemiche su si sarebbe potuto fare, non si sarebbe potuto fare, polemiche tra la Lombardia e Roma, oppure tra il governatore della Lombardia e un gruppo di sindaci. Ci sono polemiche, però sono tutte polemiche sul fare. Diciamo così, quel tipo di polemica ideologica, Novax, eccetera, eccetera, in questo momento nel nostro paese non è presente. C'è una compattezza di tessuto sociale italiano e di questo secondo me dobbiamo esserne contenti. Negli Stati Uniti invece l'ideologia sta prevalendo, ha prevalso in tutto questo periodo e in alcune frange sta prevalendo sulla malattia. Cioè, siccome Trump all'inizio ha detto che questa era un'invenzione dei democratici, che la cosa era molto meno grande, che si voleva dare un colpo all'economia, eccetera, eccetera, le sue frange estremiste si sono montate molto dai commentatori radiofonici, mm-hmm. più famosi che di destra, tipo Rush Limbaugh, hanno caricato molto la gente dicendo ah, ma questo qui è un complotto, è una cosa contro il presidente, e le persone credono, c'è una parte di persone che pensano che questi scienziati la stanno ingrandendo. Poi magari pensiamo a persone che vivono in aree rurali d'America, che non sono a New York, non vedono un'ambulanza via l'altra e quindi non hanno quella percezione. Ma c'è un di più. Nel profondo di una certa America, che in questo caso si è riconosciuta in Trump, c'è l'odio. C'è l'idea che uno deve essere libero di portare le armi, di vivere come vuole, e c'è un odio profondo verso tutto ciò che sono le regole statali, vissute come una cosa da, appunto, bolscevica, per dirla alla Milan. E quindi che cosa significa? Che nel momento in cui ti dice lo Stato, no, tu devi tenere il distanziamento, no, ti devi mettere la mascherina, no, devi fare così, no, chiudiamo le aziende, loro vedono questo come una lesione fondamentale delle libertà. Mario, ci viene visto come il nemico pubblico numero uno da questo punto di vista. La cosa strana è che, come scrive oggi Michele Serra nella sua amaca, c'è una variante in questo match antico come il mondo, scrive Serra, antico come la lotta tra il sussiego e la vanità del potere e le esigenze della verità. La variante è proprio che Fauci gira sotto scorta, cioè lui è il portatore della scienza, è considerato da alcuni un nemico politico quando in realtà ha messo avanti solo le sue conoscenze che gli vengono da decenni. Alessandro, io non mi stupisco, perché in questi anni anche in Italia e in Europa ne abbiamo visto. Abbiamo visto Veronesi chiamato da Grillo Cancronesi, Umberto Veronesi, quando era ancora vivo. Cioè abbiamo visto molto antiscientismo. Oggi, grazie al cielo, in Europa c'è stata una tentazione della politica, non in Italia, ripeto, ma per esempio Boris Johnson di dire ma no, ma la scienza noi facciamo in un'altra maniera. Ma poi però, da questo punto di vista, gli esperti e la scienza in Europa hanno trovato il loro spazio, ma grazie al cielo, perché sennò qui noi oggi saremmo a contare i morti non i 16-17 mila a cui siamo arrivati, saremmo a 50.000, 60.000, chissà che numeri saremmo. E grazie al cielo che la razionalità scientifica ha vinto. Negli Stati Uniti, da questo punto di vista, tu guarda la situazione. La situazione ha un caos che è molto peggiore di quello che noi abbiamo qua. Allora, adesso arriviamo anche all'Italia, ma per fare questo rapido giro del mondo, ieri abbiamo citato il presidente delle Filippine Duterte, che ha detto l'ordine di sparare a vista a chi viola la quarantena. Possiamo sentire anche l'audio, prima in lingua locale, ma poi la chiusura dell'audio è chiaro: shot them dead. Senti un po', vai Carmela. Karoon ng vacasyon, lumaban at ang buhay ninyo na lagay sa alanganin, shot them dead. Questo così shot them dead, vabbè, lo fa con gli spacciatori, lo fa con allora attenzione, notizia di poco fa, caro Mario, per venire alle cose italiane, il capo della protezione civile Borrelli ha detto che, cari italiani, staremo a casa anche il primo maggio, quindi mettete via le costine, mettete però via... Però siamo sempre stati a casa il primo maggio. Sì, no, ma adesso proprio a casa, cioè neanche a fare. Comunque, tra poco parliamo anche delle tue interessanti newsletter, perché ci sono alcune cose che mi hanno colpito. Ma, Mario Calabresi, dobbiamo dare il buongiorno al procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, che è con noi. Buongiorno e benvenuto, buongiorno. Dottor Gratteri. Buongiorno, procuratore. Buongiorno, Calabresi. Lei ha lanciato un allarme duro a dire guardate che attenzione in questo momento in cui ci sono molte persone che lavoravano in nero, adesso hanno bisogno di quei 30, 50, 60, 80 euro, 100 euro e dove vanno a prenderli? Quali 100 euro? Chi li ha mai visti 100 euro? Chi lavora 100 neanche. No, e la situazione è preoccupante, perché io penso a quella fetta di società che è molta, che non riguarda solo il sud, ma riguarda anche il centro-nord. Cioè, ci sono famiglie, ci sono generazioni di famiglie che da sempre vivono lavorano in nero, in ristoranti, nelle aziende agricole, nel mondo dell'edilizia, e che sono stati sempre assunti mediamente per 30 euro al giorno. Ora questi 30 euro non ci sono più. E allora poi noi ci siamo sempre detti che le mafie, la 'ndrangheta in particolare, è presente dove c'è da gestire denaro e potere. Se per un mafioso, per un capo mafia, dare 500 euro, 1000 euro ad una famiglia è niente per lui. E questa famiglia vedrà questo capo mafia come un benefattore, perché arriva prima dello Stato. E allora questo benefattore poi, quando sarà ora di votare, sarà più forte nei confronti di questa famiglia. Sì. E dirà: votate questa persona. L'altro giorno, ho fatto l'esempio del Chapo in Messico. Il Chapo ha ucciso migliaia di persone, ha portato negli Stati Uniti tonnellate di cocaina, però al contempo costruiva ospedali, strade, scuole. Quindi quei disperati delle favelas lo vedevano come un benefattore. E noi non dobbiamo correre questi rischi. Quindi i comuni devono gestire, perché è l'ente più vicino ai cittadini, deve gestire questi soldi, perché è la forma più veloce. Però al contempo io ho proposto che questi elenchi dei poveri vengano dati a Polizia, Carabinieri e Finanza, e che si dividano i compiti e questo lavoro gravoso, per capire che poi magari qualche sindaco faccendiere, qualche sindaco mafioso non gestisca questi soldi per i soliti amici. Sì, certo, perché c'è Calabresi, c'è anche l'altro aspetto che ha detto Gratteri, che molti sindaci sono in qualche modo eletti perché sono lì, perché hanno delle connivenze mafiose, e quindi se adesso arrivano i soldi da distribuire da parte dei sindaci, siamo sempre alle solite, no? Il problema è se sono fatto con trasparenza o con meccanismi clientelari. Quello su cui bisogna vigilare. Sì, c'è un modo per vigilare, Gratteri? Sì, certo. Intanto, appena sono pronti questi elenchi, i sindaci, o attraverso il meccanismo, attraverso passando dalle prefetture, o direttamente alle compagnie, alle stazioni, perché ad esempio la capillarità dei carabinieri, immagino anche nei paesini sperduti, ci sono le stazioni dei carabinieri, sono in grado subito di stabilire chi ha bisogno, chi è un trafficante di cocaina e ha soldi nascosti sotto leggiare, però formalmente è un disoccupato, formalmente è uno che non ha reddito, che non fa nemmeno la dichiarazione dei redditi. Allora qui sarebbe opportuno che intervenissero carabinieri, polizia e guardia di finanza, ma non per avere sfiducia a priori nei confronti dei sindaci, perché la stragrande maggioranza dei sindaci sono persone per bene, però in aree ad alta densità mafiosa c'è questo pericolo concreto. Qual è secondo lei il settore più a rischio, il settore economico, agricoltura, edilizia? No, il settore economico è la ristorazione. Perché guarda, la ristorazione, l'agricoltura, cioè qui quando tra pochi mesi si tornerà ad una quasi normalità, normalità non ci sarà fino a quando non si troverà un virus, un vaccino. Quindi tra 2-3 mesi ci avviciniamo all'apertura di attività, prima industriale eccetera. La ristorazione sarà l'ultima, e quindi sarà quella che pagherà di più: alberghi, ristoranti, pizzerie, ovviamente oltre ai cinema e ai teatri, ma la ristorazione è quella che paga di più. Allora io immagino questi ristoratori in difficoltà se non pensano ad esempio di rivolgersi a un usuraio, e se si rivolgono a un usuraio andranghetista è la fine, perché l'obiettivo dell'usuraio dell'andranghetista offre condizioni molto allettanti, prestano soldi anche a interessi più bassi delle banche. Perché l'obiettivo dell'usuraio andranghetista non è quello di diventare ricco, attraverso l'usura, ma di rilevare l'attività commerciale per poi fare riciclaggio attraverso quelle attività commerciali. Quindi all'inizio condizione anche incredibile, migliori delle banche, poi dopo, sì, poi dopo però prima o poi ti rubano, tra virgolette, il ristorante. Nell'arco di un anno o due. Un anno o due, hai capito Mario Calabrese? Insomma, questa è l'allarme che ci lancia. Questo qui è un dato fondamentale, c'è il tema per esempio degli affitti, sai che su questa cosa dei ristoranti, dei bar, perché tutto questo tipo di attività riaprirà tardi, come dice il procuratore, non saranno certo i primi a riaprire. Quando riapriranno, inoltre, se avranno delle regolamentazioni stringenti sul numero dei tavoli, per esempio devi avere la metà dei tavoli, ma come puoi pensare che oggi un ristorante, cioè pensate un attimo, come può stare in piedi se gli si dice riapri e quindi ha tutte le spese che aveva prima, però con la metà dei tavoli, quindi con la metà del fatturato, nessuno ha un guadagno tale, e quindi questo farà sì che si metteranno in condizioni economiche disastrose. Come dice il procuratore, questo in alcune zone, in alcune situazioni, lascerà uno spazio immenso alla criminalità organizzata per fare da supplente se lo Stato non è presente. Però procuratore, nel ringraziarla, oltre a controllare con le forze dell'ordine, cosa si deve fare? Immettere nuova liquidità a queste imprese? Io direi che devono fare un passo avanti le banche, l'ABI e la Banca d'Italia devono rivedere le regole delle banche, cioè intanto devono facilitare e abbassare il credito, rischiare un po' di più, anche se il rischio di insolvenza aumenta, non devono aumentare gli interessi, ma soprattutto devono essere le banche a proporsi a collaborare in questo momento storico per l'Italia, perché veramente sarà un voltare pagina. Bisognava rivedere nella nostra testa, Calabresi diceva una cosa importante, costi, e quindi questi, voi sapete che ci sono ristoranti a Roma che pagano solo di fitto 12.000 euro al mese, e quindi se il fatturato sarà la metà, come dice Calabrese, questi 12.000 euro solo di fitto dove li prenderanno per i proprietari dell'immobile? Quindi dobbiamo rivedere le regole del mercato alla luce della realtà. Quindi io vorrei sentire più nei dibattiti più economisti, più presidenti di banche, a esperti di finanziari per sì, darci ricette, e permettere un po' la mano in tasca. Sì, è vero, perché ormai infettivologi, epidemiologi, medici ne sappiamo, non ne sappiamo come loro. Non no, quello tutto. No. Però effettivamente come riparte poi l'economia reale e quotidiana concretamente non abbiamo ancora capito. Sì. Mi viene allora, da dire noi, che non ci sono gli esperti, perché non lo sa nessuno. Non lo sa nessuno, noi non lo sa nessuno al momento, però lei ha lanciato delle proposte concrete. Noi la ringraziamo, Nicola Gratteri, grazie procuratore di Catanzaro. Grazie. Allora, io devo dire il titolo, perché molti richiedono via SMS ancora il titolo, lo dico, del libro che ho segnalato, Chi ha ucciso Daniel Pearl, è di Bernard Henri Lévy, il libro edito da Rizzoli. Comunque scrivete una mail a noi, come al solito, 100.000@radio24.it, e vi diciamo bene il titolo. Però Mario Calabresi ha fatto oggi una newsletter importante, secondo me molto interessante, la trovate su mariocalabresi.it o .com. Allora, intanto, perché hai gratuitamente, questo è giusto, è da sottolineare, è gratuita, il lievito non si trova più, la farina non si trova più, e tu oggi me lo confermi intervistando una persona, è un disastro, ragazzi, ma io per fare una pizza, no, meno male che ho un panetto di lievito che mi è rimasto. Perché... Sì, delle storie di, per esempio, di artigiani o che stanno, a cui invece sta andando bene, perché ci sono, e però che servissero a raccontare anche come stanno cambiando i costumi. Per esempio, ho cercato questo giovane proprietario di un mulino, un ragazzo, un trentenne, che ha un mulino, io l'avevo raccontato in un mio libro, si chiama Aldo Bongiovanni, sta in un posto Pogliola di Mondovì, e che però è stato uno dei primissimi a fare ormai più di 15 anni fa, il primo sito internet, e lui si è trovato, lui faceva più o meno 80 ordini al giorno di farina col mulino, si è trovato adesso a fare 800 ordini, per cui lavorano al mulino 24 ore su 24 a macinare, e lui mi ha detto, cioè io non posso, appena ho un po' di lievito e lo metto in vendita, in pochi secondi è finito. È finito, dice, mi chiama Amazon e mi dice, ah, farina, ah, lievito, cioè dice che Amazon gli ha mandato un camion che è parcheggiato lì davanti per riempirlo di farina, di lievito, perché tutti fanno pane, lui dice, anche la gente che non ha mai fatto la pizza prova a fare la pizza, la focaccia a casa, chiaro, il pane. È chiaro. Io credo che in questo però ci siano due cose, beh, poi ognuno di noi lo sa. Intanto c'è una riscoperta del cucinare in casa, di un cucinare diverso, non più di MasterChef ma basilare, perché qui pranzo e cena tutti i giorni, soprattutto chi ha figli sa che cosa vuol dire. Ma e la seconda cosa però è che c'è anche un probabilmente un qualche cosa di rimettersi un po' in, non so se dire in pace col mondo sia corretto, però rimettere le mani in pasta, cucinare è qualcosa che fa un po' di ordine, che dà un po' di tranquillità. E quindi trovo che in tutto questo, forse in questa ricerca della farina, l'altra cosa che esaurisce in un attimo è il burro, per esempio. Farina, burro, lievito, appunto, quello le cose basilari. Quello lo trovo. E una cosa divertente mi ha detto, lui aveva più di metà del fatturato che era fatto di prodotti, tra virgolette, dietetici. Non so, la crusca di avena, le bacche di goji, i semi di chia. Sì, mi ha detto, non li vuole più nessuno. Le diete sono completamente dimenticate. Le diete sono state cancellate. Dice, torneranno, ma adesso, dice, mi sono reso conto che tutta quella roba... La gente vuole ingrassare. Sono le cose del benessere. Quando nei tempi di vacche grasse uno si permette di fare la dieta. In tempi come questi lasciamo perdere la dieta. Infatti c'è la battuta che va per la maggiore, che fa il verso all'andrà tutto bene, è andrà tutto stretto. Sì. quando tra un paio di mesi, non lo so, proveremo i vestiti. Mario, io ti devo salutare, ti ringrazio molto. Ti voglio chiedere Mario una cosa, mi scrivono e mi chiedono, ma non era Vecchioni quello che ha fatto la presigla? Non mi pareva. No, dai, non credo. No, è un ascoltatore. Non credo che il maestro Vecchioni, si presti così. Sarebbe eccezionale. È Vecchioni. Allora, è Vecchioni. Dai, iniziamo a dare questa notizia. Abbiamo la presigla di Vecchioni. No, non credo che il professor Vecchioni si sia prestato. Era professore alla mia scuola, nella classe accanto alla mia, quando andavo al ginnasio. Hai visto. Magari uno di questi giorni ci aiuti, lo chiamiamo. Viene qui Vecchioni, viene qui virtualmente, ci dice qualcosa sulla scuola. Non è che puoi pretendere che faccia con bella tromba di Raffaele Kohler che suoni in trasmissione. No, quello no. Ricordo che alle 10:15 avremo ospite Gino Sorbillo, pizze napoletane tra le più celebri al mondo, giusto per spiegare come si fa la pizza, capisci? Intanto noi, Mario, ti ringraziamo tantissimo. Grazie a te, buona giornata a tutti. Presto. Grazie, andiamo un attimo in pubblicità. Uno, nessuno, 100 Milan. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. E vai Milan, sei sempre il migliore. Buona giornata. Perché far costruire nuovi ospedali se c'erano quelli che erano stati fatti chiudere da poco più di 2 anni, funzionati? Non capisco. Buongiorno, ma lo vogliamo capire che il mondo non sarà più come prima, che d'ora in poi cambieranno tutti i nostri comportamenti, assembramenti, happy hour, luoghi di ritrovo, non ci saranno più. Mamma mia, che pessimismo. No, io no. Oh, Leonardo Manera, buongiorno. Buongiorno. Anche tu la pensi così? No, dai. Ma no, che adesso si trova, vedo di farmaci, no, che si stanno sperimentando, che attenuano i sintomi. Basterebbero anche quelli senza vaccino, medicinali che ti rendono la malattia una malattia normale, ecco, che ti fai una settimana invece... a casa. Allora, dirò una cosa controcorrente, so che può sembrare strana in questo momento in cui tutti sono angosciati, ma io credo che quando finirà, poi con un pochino di lentezza, ma neanche tanto, la gente poi tornerà a... cioè, l'uomo e la donna sono animali flessibili e torneremo a fare le stesse cose, faremo dei grandi aperitivi. Alcuni lo stanno facendo già adesso, hai visto? Beh, alcune strade di alcune città che sono già affollate. A Napoli oggi Libero titola "Ci vorrebbe il lanciafiamme", come ha detto De Luca, a Napoli. Non so, vedremo, magari lunedì sentiamo il sindaco di Napoli. Comunque io utilizzerò questa esperienza del coronavirus per cambiare vita e lavoro e metterò un'azienda, ho pensato, che produrrà lievito e mascherine. Dici che può funzionare? Sì, l'abbinamento è un po' strano. La chiamerai maschera di pane, ti piace? Ti piace come idea? Maschera di pane, così, da Manera, da Zio Bonetti. È una buona idea. Io ti vorrei sottoporre questa ricerca, che è una ricerca molto importante, dell'Istituto Cattaneo SVG per la Stampa, oggi a pagina 8. Il titolo è questo: il grande paradosso delle donne. Donne, stiamo parlando a voi, si ammalano meno ma hanno più paura. Allora, è stato accertato che il 64% dei malati è maschio, e quindi evidentemente tutti hanno studiato, non so, i geni, gli ormoni, capire. Comunque, di fatto, le donne si ammalano meno, però hanno molta più preoccupazione e molta più paura. È una sorta di paradosso che la stampa è una grande rivincita per noi uomini, che veniamo sempre accusati di lamentarci anche se abbiamo 37 di febbre. Questa è la nostra rivincita, diciamo che finalmente anche le donne temono come noi le malattie, ecco, quindi in questo siamo uguali, anzi più di noi. Diteci qualcosa, care ascoltatrici, perché ci accusate appunto di essere dei lagnoni. Ma qui l'uomo può riprendere il proprio ruolo e consolare la propria donna, dire: non ti preoccupare, che ci penso io, vedrai che poi ricominceremo. Non ti succede. Può fingere di essere ancora l'uomo sicuro. Ecco, uomini, tornate a fingere sicurezza. C'è quest'altra notizia, però io l'ho letta sul Fatto Quotidiano, io non lo so se la voglio dare questa a Leonardo, perché poi la gente si abbatte, si deprime, poi De Luca li chiama i portaseccia, quelli che vedono male, tutto nero, anche quando non è tutto nero. Però c'è questa notizia, la do questa notizia? Prego, sentiamo. Sicuro? No, perché ci sarebbe in Italia la prima malata, quindi la malata 1, recidiva. Cioè, guarita dal Covid, si è riammalata. Questo in Veneto, in provincia di Verona. Era successo anche in Cina, però pare che siano casi veramente isolati. Rari, sì, pare rari, che siano casi molto rari. Sì. Sì, i medici dicono che è un caso raro, quindi non facciamoci abbattere. Però, a proposito di abbattere, c'è un'inchiesta per capire cosa è successo sul sito dell'INPS. C'è un'inchiesta anche, tra l'altro ieri, da Simone Spezia e Maria Latella è stato svelato che l'INPS spende 400 milioni di euro, anche di più, 430 all'anno, per gestire il sito, cioè per la sicurezza del sito. Ora, voglio dire, non facciamo commenti, perché si commenta la situazione da sola. Però vediamo cosa succede in Germania. Salutiamo e torna con noi Andrea Daddio, direttore di Berlino Magazine. Andrea, buongiorno. Buongiorno. Visto che, insomma, poi dopo i paragoni risultano sempre impietosi, poi ti dobbiamo chiedere anche di una paginata comparsa sul sito e sul giornale La Bild. In Germania come funzionano i rimborsi? Ce lo vuoi spiegare? Allora, prima di tutto c'è da fare sempre la premessa che in Germania vige uno Stato federale che è davvero federale, per cui ogni Land, quindi ogni regione, ha un proprio fondo che adesso ha messo a disposizione sia dei freelancer che delle imprese. Parallelamente a questo fondo c'è poi un fondo federale per cui in questo momento a cui si può accedere con la stessa domanda con cui si accede al fondo per le piccole e medie imprese o per i lavoratori autonomi, ma che in futuro potrebbe diventare anche una questione a parte. Io ho un'esperienza diretta col fondo, perché Berlino Magazine è parte di una società che ho fondato 5 anni fa, che al suo interno ha anche una scuola di lingue, Berlino Schule, e una parte di comunicazione con cui facciamo molti eventi. Noi ci sono saltati diversi eventi, soprattutto. Sì. Avevamo organizzato un grande evento in tutta la Germania dedicato alla pizza, una pizza week, con una sponsorizzazione molto forte da parte di un grosso marchio italiano. E in più la scuola di lingua non può più ospitare i ragazzi all'interno delle classi, perché logicamente diventa una sorta di assembramento. Ed è la ragione per cui abbiamo fatto domanda per questo fondo. Il fondo, diciamo, abbiamo fatto una doppia domanda. Abbiamo fatto domanda venerdì mandando una mail di registrazione a un sito che ci ha messo in coda, ha fatto apparire una grossa, come il caricamento sui vecchi Commodore 64, in cui vedi che la barra aumenta poco a poco. Eravamo in fila, mi sembravamo all'inizio 380 millesimi. Venerdì ogni giorno il sito si riaggiornava, ti faceva vedere dove eri esattamente, a che punto della fila. E lunedì alle 10 del mattino abbiamo ricevuto una mail che c'è, entro mezz'ora potete compilare online la richiesta. Nella mezz'ora successiva, quando è stato il nostro turno, abbiamo compilato i documenti e il giorno dopo abbiamo avuto 5.000 euro a fondo perduto per la società da parte dello Stato di Berlino e 9.000 euro per coprire un po' di liquidità da parte dello Stato federale. Quindi Andrea, fermati qui, in giro di 24 ore, adesso poi dopo si dice sempre i luoghi comuni, la Germania più efficiente, cioè ci ha spiegato che nel giro di 48 ore, 24 ore, con delle semplici domande online sono arrivati 13-14 mila euro, così a fondo perduto, per carità. Ma è vero? 5 mila euro sono a fondo perduto. Ma è vero, sta dicendo Andrea, la verità o sta mentendo? Cioè, è vero questo. Sì, è vero. Purtroppo, è vero. E che lezione dobbiamo trarre? Perché non lo so, dopo ci deprimiamo, Andrea, no? A dire qui in Italia invece no, qui crashano i siti, qui... Per me la lezione importante è che in un momento storico, e noi sul sito, su Berlino Magazine, riceviamo ogni giorno centinaia di commenti negativi sulla Germania, nazisti, le peggiori offese, incredibili. Bisogna prima di tutto pensare che la Germania, con tutti i difetti che ha, tutte le limitazioni che ha a livello decisionale, che sta rallentando il processo di europeizzazione che dall'Italia giustamente reclamiamo, la Germania è un paese che dobbiamo prendere per certi versi a modello, che si rimbocca le maniche e prima di fare la vittima organizza bene le cose dentro e poi va a vedere fuori. Ed è una cosa che noi, mi dispiace tanto, non siamo ancora in grado di fare. Magari dopo questa tragedia forse ci rimboccheremo ancora di più le maniche come erano in passato. Io su questo, sai, sono dubbioso, nel senso che credo che non ci cambierà più di tanto. Senti, invece sulla Bild si discute molto di questa pagina di pubblicità, ce la farete, italiani, a chi ci si divide tra chi dice è una bella pagina di solidarietà e molti altri che dicono ma no, dai, leggetela, è piena di luoghi comuni, l'Italia, pizza, mandolino, Paolo Conte, e quindi in realtà è una grande presa. No, vabbè, un po' meno, certo, luogo comune Paolo Conte. Sì, certo. Si è citato anche Umberto Tozzi, ma insomma, comunque, cioè, pare che sia una presa in giro per molti altri. Si capisce da dove nasce tutto questo? Beh, secondo me è una situazione a metà, ne ho scritto. Da una parte la Bild si rivolge alla pancia della Germania, quindi purtroppo bisogna attirarla con slogan facili e semplicistici, è gente che effettivamente, io mi ricordo, un giornalista, ma quando arrivai qua a Berlino 11 anni fa mi capitava che appena conoscessi un tedesco mi chiedeva che fai lavoro in gastronomia, cioè in automatico, a prescindere, certo, da qualsiasi altra discussione. Fammi una pizza, da una parte hanno giocato un po' sull'identificazione, su delle immagini facilmente riconoscibili da persone che non articolano troppo il pensiero, che ce ne sono in Germania come in Italia, come in qualsiasi parte del mondo. Però francamente, al di là di tutto, io l'ho trovato sostanzialmente offensivo, perché in un momento in cui c'è una grande, abbiamo tutti i giornali, tutti i giornalisti, tutti in realtà, tutti i cittadini hanno una grande responsabilità, ed è quella di cercare nell'idea che la tragedia coinvolga tutti la soluzione futura. E in questo senso non si può scrivere un articolo che di fatto è come una pacca sulla spalla che dà un ciclista che sta scalando una montagna, ma di fatto poi ti giri e continui a fare la tua vita, ma se non fai la corsetta sì, con i tuoi amici. Sì, c'è da dire una cosa invece. Tornando al tema primo, molti ci dicono è chiaro, la Germania ha i soldi. No, ma attenzione, ma non stiamo discutendo di quanti soldi abbia avuto Andrea Daddio, di quanti soldi la Germania abbia stanziato per le persone come lui, le persone in difficoltà. Stiamo discutendo anche della procedura, della semplicità con cui in 24 ore con due clic questi soldi sono arrivati. Mettiamo il caso, l'Italia va bene, non ne può dare 15.000 euro, può dare 600 euro, ma in due giorni, in un giorno, in due clic, non con il casino che abbiamo visto e chissà quando arriveranno. Quindi c'è anche una, il tema non era tanto il quantum ma il come. Prego Andrea. E posso aggiungere che comunque questi soldi saranno soggetti a verifiche e conoscendo i tedeschi penso che le faranno davvero, che era legittimo chiederli solo a società che fossero in salute, quindi qualsiasi società stesse in perdita da più di un tot di mesi, poi verrà definito meglio, e ha ricevuto i soldi, andrà incontro al riscatto dei soldi. Quindi c'è da una parte grossa generosità, dall'altra la responsabilizzazione verso tutte le persone che hanno fatto richiesta. Adesso non c'è il tempo, l'hanno specificato, di controllare tutti, ma a un certo punto arriverà il controllo. Si crea anche a livello di limitazioni personali, anche nel fatto che io andrò a fare una passeggiata senza una limitazione di centinaia di metri come in Italia, l'idea è che tutti devono essere responsabili e sulla base di questo si potrà ripartire. Andrea, noi ti ringraziamo come sempre, Andrea Daddio, Berlino Magazine, direttore, da Berlino appunto. Allora, noi dobbiamo andare al traffico, però Leonardo, sai che ho lanciato questo tema, adesso lo rilancio, stanno arrivando tanti messaggi. Perché le donne secondo voi si ammalano di meno? Non fateci, come dire, delle dotte disquisizioni mediche, queste le lasciamo ai medici. Così le vostre teorie, perché c'è chi ha detto perché le donne hanno più paura e stanno più attente, c'è chi dice perché... Sono più pulite la cosa più semplice perché sono più pulite. Sono più pulite. Siamo più preoccupate, scrivono Silvana e Anita, perché ancestralmente siamo programmate per la sopravvivenza della specie, quindi il nostro istinto è di proteggerci. Ma io ti ho risposto alla domanda perché si ammalano di meno, semplicemente più si lavano, lavano, l'uomo non si lava mai. L'uomo ha da puzzare, invece la donna si lava. È la semplice mia risposta scientifica. Diteci voi, 349-238-6666, traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Una partita IVA che conosco che guadagna 15.000 euro al mese o guadagnava 15.000 euro al mese, il commercialista gli ha mandato la lettera che può ritirare i 600 euro. Mamma mia. Ah, cioè questo ascoltatore dice guadagnava già 15.000 euro, forse avrebbe potuto rinunciare a questi 600 euro, no? E guadagnava 15.000 al mese. Ci sono comunque delle regole di reddito, no? Per le quali tu puoi accedere. Quindi rientrava in quella categoria, insomma. Allora, donne, perché vi ammalate meno? Questo almeno è il tema. Maurizio ci chiama da Torino invece. Maurizio, buongiorno. Buongiorno dottor Milan, niente, come dicevo alla persona addetta alla ricevimento delle telefonate, ho acceso la radio un po' tardi in merito al commento di un suo ospite che lei ha chiamato procuratore e mi riferisco Nicola Gratteri, procuratore. Benissimo. E quindi mica una figura di secondo piano. Adesso spero di non essere additato al pubblico ludibrio perché dissento in parte da quello che lui ha detto. Lui ha detto che l'idea di ridurre in certi esercizi commerciali, per esempio ristoranti, i tavoli al 50% non è positivo per l'esercente perché dice se sostiene le stesse spese e come fa a starci dentro col 50%. Ecco, le osservazioni che io faccio sono due. Lasciamo stare la materia prima perché è scontata, se uno al 50% di persone, di clienti, va da sé che la materia prima è più o meno in ragione di quello. Il secondo commento è questo, ci sono altri costi che si possono ridurre, tipo quello del personale, non sarà il 50% lì, per definizione sarà un po' di più, ma non comunque il 100%. E terzo, il più importante di tutti, se un esercizio si basa per avere almeno una parità di bilancio, almeno, che non è giusto, si basa sul fatto che deve avere il 100% dei tavoli sempre occupati, vuol dire che forse non sa fare bene il suo lavoro. No, però il tema non sa fare bene il suo lavoro. Però mettiamo il caso, Maurizio, se uno almeno il sabato, il venerdì sera ha non solo il 100% dei tavoli occupati, ma magari riesce a fare due turni, chi tre turni di ristorante, e invece adesso deve avere, come dire, appunto i clienti limitati, dimezzati, l'affitto rimane lo stesso, perché non credo che chi l'affittuario gli dica guarda, allora ti sconto l'affitto. Il personale, lei dice di meno, ma vuol dire lasciare a casa le persone, vuol dire licenziarne. E quindi capisce che in realtà, sì, è vero, non è che uno mette in piedi un locale pensando che tutte le sere, tutti i pranzi sia pieno, fa dei calcoli un po' più a ribasso, però sicuramente una perdita ci sarà se ci saranno le limitazioni. Facciamo il caso di Leonardo Manera, scusate, Leonardo Manera fa gli spettacoli e fa sempre il pienone, questo lo devo dire, 300, 400, 600, no, beh, insomma, in genere quando va in giro. Se adesso dicono un posto ogni tre, tu quando vai in un teatro di 600 persone ne avrai 200, di più non si può. Allora cosa fai? Triplichi il biglietto? No, perché sennò poi la gente non viene. Ma sai che alla fine si verificherà quell'ipotesi che avevo detto per scherzo al direttore del Teatro Manzoni, cioè di vendere un posto ogni cinque. Ti ricordi? Di vendere un posto, una poltrona ogni cinque. E allora mi avevate additato al pubblico ludibrio per questa mia proposta. Ma non è vero. Guarda, dice le solite stronzate, questo pagliaccio. Ma non è una proposta, è un obbligo. Cioè non sarà una proposta, sarà una cosa che subiscono i teatri e gli artisti. Ho capito, ma allora mi avevate sfottuto dicendo guarda la proposta del pagliaccio. Sì, ma poi io credo che magari sarà così i primi due mesi. Poi tra l'altro adesso in estate i teatri saranno chiusi, ma la stagione è compromessa. Ma secondo me settembre poi si potrà ripartire normalmente, credo. Faccio solo notare che quella che sembrava una battuta, ecco, potrebbe essere la realtà. Basta, non dico nient'altro. Non dico nient'altro. Ti lancio con quello che devi dire, con questa teoria: le donne si ammalano meno perché mandano noi uomini a fare la spesa. Davide. Questo è anche vero. Mentre Dario dice le donne muoiono meno perché gli anziani uomini fumavano più delle donne. Vabbè, dai, tu Leonardo, che ci vuoi dire? Allora, voi avete già parlato di pizza, ne parleremo anche nella seconda parte adesso di Uno Nessuno 100 Milan, perché a casa ci sono persone che impastano pizze su pizze, ci sono forni che cuociono senza soluzione di continuità. Ci si rifugia nella pizza. Quando impasti una pizza, il problema principale è come faccio a sciacquarmi le mani dopo aver impastato senza sporcare il rubinetto per aprire l'acqua. A parte questo, io rispetto alla pizza ho più di un ricordo. Mia madre era esperta di pizze fatte in casa e ogni volta che ne sfornava qualcuna era una festa. In particolare quando mia madre preparava la pizza c'era un momento che mi affascinava. Era quando, dopo aver impastato acqua, farina e lievita, faceva una bella palla, la sbatteva più volte sul tavolo di marmo con forza e poi la metteva nel forno semiaperto con sopra un panno umido a riposare per alcune ore. Ecco, quello era il momento che preferivo, perché era quello in cui si umanizzava la pizza, come dire ti ho impastato, ti ho sbattuto sul tavolo e adesso capisco che sei stanca, vai a riposare. Il lievito madre faceva gonfiare l'impasto come la pancia di una donna incinta, forse per quello che si chiama lievito madre. E intanto io pensavo, cosa sogna la pasta della pizza quando riposa? Altro che le domande di Salinger nel Giovane Holden, dove vanno a dormire le papere o cose simili. La mia domanda, molto più interessante, era, cosa sogna la pasta della pizza quando riposa? Ed ero giunto ad alcune conclusioni. Vabbè, c'è il pubblico, c'è Beniamino che ti distrae. Beniamino, vai a pulire il bagno, vai a pulire il ripostiglio, vai. Ed ero giunto ad alcune conclusioni. La pasta. Questa è la prima conclusione a cui è raggiunto. La pasta della pizza quando riposa sogna poi di entrare in un ti rimandiamola domani, perché vedo che c'è. Come rimandiamola domani? Scusa, adesso mi rimane il dubbio, cosa sognerà la pasta della pizza quando almeno stiamo, o lo facciamo dopo, perché non riesco, guarda, ormai mi tocca tardi. Ce la fai. Non ce la fai. Secondo me ce la facciamo. Abbiamo un minuto, Carmelo. Sì, ce l'abbiamo un minuto. La pasta della pizza, quando riposa, sogna poi di entrare in un forno tiepido, ma non bollente. Un forno che lo traumatizzi. Meglio un forno a legna rispetto a quello elettrico, dove rischi di ustionarti con qualche resistenza. Un bel forno tiepido, come una vasca idromassaggio in qualche centro benessere d'inverno. Sogna poi, prima di essere infornata, di essere maneggiata da un pizzaiolo esperto e delicato che la possa massaggiare, eliminando ogni tensione. Sogna di incontrare una birra dorata che l'accompagni dal palato fino al tubo digerente, prima di scontrarsi con gli acidi e i succhi gastrici dello stomaco. E poi sogna una farcitura, una mozzarella filante che fa gruppo, un pomodoro delicato e sensibile, un'acciuga estroversa, un salame piccante e impulsivo ma in fondo schietto, e un filo d'olio senza troppa acidità che rovina i rapporti. Finché poi la pasta della pizza si sveglia dal riposo e non sempre i suoi sogni si avverano. Può incontrare un pizzaiolo poco delicato e che va per le spicce, un forno troppo caldo, ancora troppo freddo per accogliere il nudo impasto, e invece di un bel salame piccante può incontrare un prosciutto cotto. Cotto sì, ma alla lunga poco interessante rispetto a un bel salame piccante. Insomma, la vita della pizza è proprio come la vita dell'uomo. Quando si riposa, si sogna. Quando ci si sveglia, ci si scontra con la dura realtà. Per questo la pizza è così popolare, perché in fondo ogni pizza è il riassunto di tutte le vite. Ce l'hai fatta! E parleremo di pizza e non solo dopo il giornale radio, Michael. Radio 24 è sempre con te. Ci siamo sempre stati. E in questo periodo difficile continuiamo ad esserci, anzi, ancora di più. Resta a casa. Noi pensiamo ad informarti con i nostri GR, ad intrattenerti con i programmi in diretta anche in video. Con contenuti speciali creati apposta per te, che puoi ascoltare da casa tua quando vuoi. Scarica la nostra app o vai su radio24.it e scopri tutti gli approfondimenti, gli speciali, le dirette e i podcast esclusivi, sempre disponibili sulla nostra homepage e su tutte le principali piattaforme. Resta a casa con Radio 24. Noi ci siamo sempre. Radio 24. La passione si sente. Si sente. Uno, nessuno, 100 Milan. Sì, ma non si può così con Manera, non si può, non riesce a finirne una talvolta. Cioè, io sto ancora aspettando il finale della storia di Gaudenzio, o Gaudino, adesso non mi ricordo neanche più, perché mi ha lasciato lì in sospeso. Cribio. Lo so, Leonardo Manera ogni volta, come direbbe mia mamma, ogni tanto gli sciopa la stupidera. Cioè, no, oggi era giustificato. Colpa di Beniamino. Colpa di Beniamino. No, adesso vuoi dare lui. No. C'era qui lui, ha riso, era inaspettato e allora mi ha fatto ridere. Allora, la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan, anzi la terza mezz'ora. Allora, devo dire questo, che ci stanno arrivando delle teorie. Un ascoltatore ha detto, sì, le donne si ammalano meno perché si lavano più le mani rispetto agli uomini. Ma la migliore, scusate la battuta, è di Angelo da Trieste. La moglie vive più del marito perché non ha la moglie. Vabbè, questa non è male, eh. Non è male, chissà, magari le donne si arrabbieranno un po', ma insomma, vabbè. Armando da Pordenone, buongiorno Armando. Buongiorno. Eccoci. Io lancio una proposta, adesso la faccio molto generica e avrebbe bisogno poi di ritocchi di qualsiasi tipo. E questo, chi come me ha una pensione, io sono pensionato, ma che ha un buon reddito sicuro statale o di comunque che sia buono in rapporto alle persone che deve mantenere o vivere, insomma. Sì. Io per esempio nella mia pensione sarei tranquillamente disposto, non so, per 4 anni, per dire, messo nero su bianco a livello legislativo, tagliare, non so, 100 euro per dire ogni mese. Un contributo di solidarietà. È un contributo, è chiaro che questo contributo, 100 euro su una pensione cospicua, discreta, perlomeno... Sì? Sì, siamo possiamo in periodo sapere quanto di due... prende, tanto... La mia pensione è sui 2.000 euro, no? Quindi per me... Ci sono disposto, son disposto ad arrivare a 1.900 A 1.900, che poi siano 1.800. L'importante è che questo contributo sia scaglionato nella maniera giusta, sì, in proporzione... Certo. Si sa che è un periodo duro e i sacrifici li dobbiamo fare tutti. Guardi, Armando, chi ha un reddito sicuro, non credo vada in fase. Io perlomeno parlo per me. È una proposta che le fa onore, è una proposta sensata, una proposta che circola sotto lo slogan chi è più ricco dia di più. Chi ha di più contribuisca di più, questo è già nella proporzionalità delle tasse, ma in questo momento potrebbe essere, non so, chiamiamola come volete, contributo di solidarietà, come dice l'ascoltatore, patrimoniale, se volete chiamarla patrimoniale, sui patrimoni, insomma, l'idea di dare un contributo. Grazie Armando. E poi, Leonardo, si potrebbe titolare questo spazio e poi c'è la Svezia. E poi c'è la Svezia. Questo è interessante il caso della Svezia. È molto interessante. Infatti noi abbiamo un italiano che fa l'infermiere a Stoccolma, in un ospedale che non oso pronunciare, se ci aiuta lui, Francesco Vaccarezza. Buongiorno Francesco e grazie. Buongiorno. Qui passa un'ambulanza intanto. Francesco, eccoci. Buongiorno. Si trova a Stoccolma, una scelta di vita, se ho capito, a fare l'infermiere, quindi è nella posizione di raccontarci bene come mai gli svedesi stanno sottovalutando il problema, dico, è una domanda? Oppure avendo un approccio completamente diverso. Anche diverso, ce lo spieghi. Buongiorno. Sì, qui la situazione apparentemente è tranquilla, ma nella realtà dei fatti si nasconde una situazione pressoché super critica, soprattutto a livello ospedaliero, in quanto la Svezia si trova negli ultimi posti in graduatoria in Europa per posti di terapia intensiva. Solamente a Stoccolma si contano 90 posti per 1.000.000+ cittadini. In tutta la Svezia abbiamo 520 posti di terapia intensiva. E la situazione è veramente critica, mancano anche mascherine, respiratori, però il governo questo non lo mi dice. Sconvolge. No, Francesco, questo mi sconvolge perché io ieri leggendo la notizia ho detto vabbè, ma chissà come, magari in Svezia hanno tantissimi posti di terapia intensiva e scelgono la strategia di dire facciamo ammalare le persone, contagiarle per arrivare all'immunità di gregge poco alla volta, trattiamo i casi di difficoltà perché abbiamo le strutture ospedaliere adeguate. Invece ci sta dicendo che sono al disastro dal punto di vista numerico di posti. Ma il problema sanitario svedese era già un disastro prima ancora che arrivasse il virus. Lo è sempre stato perché nel 93 si contavano circa 4.300 posti di terapia intensiva, adesso si contano 520 posti, come ho detto. E manca personale. E allora perché lo fanno? Cioè, si appellano a Odino? No, scusate la battuta, cioè, non lo so. Tra l'altro è anche una sorpresa, diciamo, perché si è sempre pensato che la Svezia e i paesi nordici avessero un grande welfare, un grande stato che si occupava di tutti i cittadini in modo puntuale, invece sembra il contrario. Ma guardi, sono uscite delle linee guida ospedaliere per scegliere quali pazienti avranno diritto a un posto in terapia intensiva, e le linee guida seguono diversi criteri, sono 3 livelli che vanno in base a età, aspettativa di vita, tipologie, quali tipi di patologie regresse al paziente e così via. Insomma, delle scelte pragmatiche un po' brutali. Anche etiche abbastanza brutali, esatto. La Svezia si sta dimostrando veramente uno stato cinico e sta mettendo davanti l'economia. Ha preferito l'economia alla vita delle persone, lo hanno anche gli stessi svedesi, molti colleghi dicono ma alla fine intanto dobbiamo morire prima o poi e quindi prenderemo tutti il virus, ma almeno l'economia si salverà. Qualcuno lo lasceremo sul campo, e insomma è un esatto, discorso di un pragmatismo terribile. Addirittura il governo dice che la situazione è tranquilla, che è tutto sotto controllo, che questa è per lo più una normale influenza dove muoiono solamente gli ultraottantenni, i bambini non vengono colpiti, i bambini non sono non trasmettono la malattia, infatti le scuole qua sono ancora aperte, e tutto aperto, negozi aperti, frasi che abbiamo già sentito, ecco. Sì, ma il discorso è che comunque sia esiste una vetrina europea in cui diciamo la Svezia può guardare e può osservare cosa succede al di fuori dei propri confini e prendere spunto anche dalle stati, non lo fa, loro vogliono l'immunità di gregge, vogliono non esistono decreti restrittivi qui, tutto il governo qui non emana decreti come può essere in Italia, che ti dicono da domani tutto chiuso. Qui il governo dà delle raccomandazioni e poi diciamo è responsabilità del singolo cittadino, esatto. No, ma abbastanza i numeri ufficiali. Ci sono numeri ufficiali di chi soffre della malattia? Allora, ufficialmente ci sono 5.500 contagiati, ma sono solamente gli acuti, che qua non fanno, non vengono effettuati i tamponi, quindi i casi positivi che noi conosciamo sono dovuti a persone infette che sono recate in pronto soccorso. E ufficialmente sono morte 300 persone, senza però contare tutte le persone che sono morte al di fuori dall'ospedale, quindi i vari ricoveri e così via. 300 persone su 10 milioni, su una popolazione di 10 milioni, equivale a circa 1.800 persone in Italia, certo, che ha una popolazione di 6 volte tanto la Svezia. E il problema è che esistono, la statistica dice che più o meno una casa di riposo su 3 è infetta, il personale sanitario ha detto non usa mascherine, il personale sanitario ha detto, intendo quelli che lavorano nei domiciliari e così via, non hanno mezzi, non hanno dispositivi di protezione individuale, quindi ufficiosamente la situazione è questa qui. Allora facciamo così, Francesco Vaccarezza, perché io sono un attimo in ritardo, devo andare al traffico, salutare il successivo ospite. Nei prossimi giorni ci risentiamo, perché vediamo, non vogliamo né portare sfortuna né essere Cassandre per la Svezia, però è certamente insolito il modo in cui viene affrontata questa emergenza in quel paese. Dobbiamo andare al traffico, poi ho gli appunti già pronti per fare la pizza, perché stasera la devo fare con un grande della pizza, Gino Sorbillo, tra poco. Uno, nessuno, 100 Milan. Eccolo qua, allora, io prendo appunti, come fare la pizza, tanto non mi verrà assolutamente come quella di Gino Sorbillo, che saluto e che ringrazio, eccolo qua, un nome, un marchio, una garanzia, grazie a Gino Sorbillo. Però abbiamo detto che tutti gli italiani ora si cimentano con farina, mani in pasta, eccetera, allora vorremmo sapere qualche consiglio. Pizzaioli e panettieri, dopo tutti quanti saranno, anche se poi ieri io da pizzaiolo sono diventato barbiere perché mi sono da solo, con una macchinetta tagliato un po' i capelli, giusto perché stavo diventando tipo Arnold, diciamo, questi capelli giganti. Questo è un altro disastro che vedremo. Comunque Gino Sorbillo lo sapete, è un nome da Napoli, Roma, New York, Miami, Tokyo, cioè insomma in tutto il mondo per la buona pizza napoletana. Allora Sorbillo, però a casa ci dobbiamo arrangiare, se abbiamo lievito, farina, quali sono gli errori da evitare e le cose da seguire? Guarda, l'errore è quello di impastare, diciamo di utilizzare all'inizio acqua calda, perché spesso si fa questo errore pensando che l'impasto possa venire più diciamo soffice e lievitato più in fretta. Invece dobbiamo utilizzare acqua fresca del rubinetto, fresca, ovviamente. Il rapporto è, per fare una pizza o due pizze in teglia, 500 grammi di acqua, 750 grammi di farina, 25 grammi di sale e 1,5 grammi, 2 grammi di lievito naturale. Si impasta. Ah, poco! Io pensavo di più, ad esempio, il lievito. Guarda, per quello che ti veniva poi alta 70 centimetri. L'errore è quello di confondere 1 grammo con un panetto. Un panetto, cioè un dado di lievito, 25 grammi. Noi con 25 grammi lo utilizziamo 10 litri di acqua, anche di più, 15 litri di acqua. Ah, invece in questo caso sto parlando di mezzo. Questo è già un primo segreto. Io mettevo circa 10 grammi, 7-8 grammi. No, troppo, diciamo troppo. In questo caso tu involontariamente, come faranno tante persone, diciamo a casa, così fai un impasto accelerato, diciamo, che prevede un grande utilizzo di lievito, che però diciamo poi diventa poco digeribile come prodotto finale di pizza o di pane. Certo. Quindi ottimo, per ottimo. Poter fare dare una giusta lievitazione a quelle famose 8 ore, no? Che spesso si sentono dire anche dai professionisti del settore, l'importante è regolarsi con un grammo di lievito a litro di acqua, mezzo litro di acqua, ma comunque non di più. Questo è il segreto. Si impasta per 15 minuti. L'importante, per esempio, è non surriscaldare l'impasto, perché spesso si mettono gli ingredienti in una, non so, planetaria, in un robot da casa, diciamo, e lo si lascia acceso anche per mezz'ora, 40 minuti, perché poi arriva la telefonata, perché poi c'è il social network, sai. Questo è un grandissimo errore, perché l'impasto non deve superare 22 gradi di temperatura. Quindi se lo si impasta a mano in una, non so, bacinella, per 10 minuti, 12 minuti, questo impasto viene di sicuro migliore e più prestante rispetto ad uno abbandonato così nel macchinario. Ovviamente, domanda un passo indietro: lievito di 2 grammi, dove lo faccio sciogliere? Allora, lo si scioglie prima nell'acqua, poi cosa facciamo? Mettiamo 25 grammi di sale, 750 grammi di farina e si mischia bene il tutto. Cominciamo a versare quindi il sale e la farina nell'acqua poco alla volta, per cercare di creare, senza mettere subito le mani dentro, la mano dentro, perché altrimenti ci ritroviamo la mano molto appiccicosa, quindi utilizziamo un mestolino di legno magari, cerchiamo di cominciare a creare una pastella. Questa pastella man mano diventerà, man mano che aggiungeremo la farina, sempre a pioggia, che se tacciamo non è male, così viene un impasto anche più soffice, comincerà a compattarsi, no? A crearsi da sola pure una massa che pian piano diventerà meno appiccicosa alle pareti del contenitore dove abbiamo cominciato ad impastare. Sì. Quando abbiamo messo poco più dei 3/4 della farina che abbiamo preparato, i 750 grammi, no? E abbiamo questa palla comunque appiccicosa, ma voglio dire già compattata in fondo, no? A quel punto possiamo con i pugni di farina mettere la restante parte di farina che abbiamo nel contenitore, quel quarto, sì, no? Sì. E cercando poi di entrare con questi pugni, però ovviamente non pugni che distruggono, pugni, voglio dire, piacevoli, nell'impasto, per cercare di finirlo, no? Come facevano le vecchie massaie, impastare. E noi quando vediamo che l'impasto quasi non si appiccica più alle pareti del contenitore, che può essere di plastica, di legno, di vetro, quello che abbiamo a disposizione, lo riversiamo su un piano di lavoro che può essere di marmo, può essere un top di una cucina, e chiudiamo, questo è il termine tecnico che si usa dire, chiudere l'impasto, no? Aggiungendo quella restante parte di farina, al massimo però un 50 grammi di farina come spolvero, diciamo, che si usa proprio questo termine, quindi arriviamo al massimo a mettere 800 grammi di farina in mezzo litro di acqua. Una volta formata e poi deve stare a riposare 8 ore. Una volta formata questa massa, no, che è la somma dell'acqua e della farina, quindi in totale avremo in totale 500 più 800, 1,3 kg di pasta, di pizza, no? Noi cosa facciamo? Lo dividiamo in due, no? Quindi 1,3 kg 650 grammi, facciamo due pagnotte da 650 grammi e le facciamo lievitare 8 ore, ok? A quel punto cosa facciamo? Come? Stupendo. Poi, c'è il momento della pizza, cioè di farla. Però cosa facciamo noi? Noi possiamo adottare due metodi. Il primo è quello che dopo 4 ore, quindi a metà percorso della lievitazione, noi prendiamo questa pagnotta da 650 grammi, la mettiamo in una placca da pizza pennellata con un po' di olio di oliva, con un pennello, con le mani, e poi avvolgiamo l'intera placca di pellicola per alimenti. Così noi facciamo cosa facciamo? Ripartire la lievitazione con la pizza già stesa nella placca, che dovrà poi restare così altre 4 ore. Quindi questa pizza, perfetto, dopo, quando verrà infornata, che non è stata stesa al momento dopo le 8 ore, no, ma 4 ore prima, diventerà di sicuro più soffice, perché avrà tempo di ricominciare a lievitare nella placca stessa. Quindi questo è uno dei segreti, stenderla a metà lievitazione. Sì, io ho una domanda sulla attaccare sulla pizza. Deve, no, deve chiaro, una domanda sulla cottura. Sulla cottura, ovviamente avendo il forno elettrico, non è che abbiamo il forno a legna in casa. Il forno elettrico. Spesso acceso si fa questo errore, certo, si arriva con la pizza davanti al forno e poi si pensa erroneamente di farlo che possa essere come una macchina, no? Che tu lo accendi e già sta a 200, no, si imposta la temperatura, ma per salire qualsiasi forno ci può mettere anche 20 minuti, mezz'ora. Diciamo, poi deve andare in temperatura, poi si mette. Allora, il problema è sempre che il sotto non si cuoce. Perché il sotto non si cuoce? Mamma mia. Allora, noi dobbiamo mettere la pizza a due altezze, dobbiamo prepararci una mensolina interna, quelle che si usano appunto nei forni, più bassa. Quindi mettiamo prima questa pizza a 250 gradi pure nella parte più bassa del forno, ma non sulla piastra, ma diciamo 5-6 centimetri più in alto, no? Per far sì che prenda la botta di calore e la prenda anche, diciamo, sotto, nella parte di sotto della pizza, poi e fare almeno così 6 minuti di cottura. Poi cosa fare? Aprire, se abbiamo un forno che diciamo, ha una luce dentro, è meglio ancora, così assistiamo pure a questa cottura, diciamo, più aggressiva nella parte inferiore. Lo apriamo con i guanti, perché ovviamente quella placca sarà di fuoco. Portiamo la pizza un po' più sopra, no? Diciamo un po' sotto la platea del forno e ultimiamo la cottura. Quindi insomma a due altezze. Attenzione, arriva una domanda fondamentale, ne arrivano tantissime sulla stessa domanda. E con lievito madre quanto le proporzioni sono uguali al lievito? Di solito noi mettiamo anche, diciamo, un quarto di contenuto di lievito madre, però la cosa è anche molto difficile da gestire. Noi potremmo addirittura utilizzare del bicarbonato di sodio, visto che il lievito di birra è anche un po' difficile da trovare, ci sono anche delle restrizioni in questo periodo. Quindi se avete del bicarbonato di sodio potete utilizzarne 5 o 6 grammi a chilo di farina per poter ottenere un prodotto lievitato. Quindi ci dobbiamo fermare qui, insomma, ma tanti segreti ce li hai detti. Poi dopo la pizza perfetta, dai. Pizza fritta, stupendo. Se vuoi, già lunedì. Se vuoi, tanto qui ogni giorno si fa da mangiare. No, io ringrazio Gino Sorbillo. Ce la facciamo, Fede Taddi, a salutarlo e dirci un gioco in 7 secondi? Fede, stavolta non è colpa mia, Federico. Non è colpa, ma ci siamo persi dietro la pizza di Sorbillo. Capisci che e lunedì facciamo la pizza fritta. Cioè, vabbè, Fede, Eccoci, diamo il buon weekend. Ci riprendiamo lunedì. No, dici un gioco in 20 secondi, dai, un gioco 20 in 20 secondi, molto veloce. Filone giochi enigmistici per i nonni, ma anche per va bene da giocare anche in casa tra genitori e figli. Becca le 7 differenze: farsi 2 selfie nella stessa identica posizione, ma nella seconda foto bisogna aggiungere degli oggetti che nella prima foto non ci sono. Mandate le 2 foto ai nonni, agli amici, ai parenti, ai genitori, e devono indovinare le 7 differenze. Sì, proprio come la settimana enigmistica, insomma, le differenze. Cioè, ti fai vedere da chi ha voglia di vederti, però lo fai anche giocare con te. Insomma, funziona perché è divertente anche da preparare la foto, è già un gioco nel gioco. Quindi scatenatevi con queste foto. Allora, tra pizza e giochi ci lasciamo e ci ritroviamo lunedì. Leonardo, è il momento. Io sono già, mi è venuto un acquolino in bocca con sentire Gino Sorbillo, che non ti dico, vabbè, e lunedì forse facciamo la pizza fritta, cioè, capisci? Vabbè, è il momento di lanciare un messaggio che valga per tutto il weekend al palazzo. Yamma fa pizza capo marola in cop. Va bene, ne hai un altro? Un po' più, vai. No, basta, finito. No, basta, finito. Vabbè, allora quello ci troviamo lunedì. Era quello. Vabbè. Grazie a tutti, a lunedì. Uno, nessuno, 100.000.